Euroreportage. La Germania evita la trappola degli euroscettici, di Sergio Nava. Trionfo di Angie. Angela Merkel stravince le elezioni tedesche 2013, superando persino le previsioni più rosee e sfiorando la maggioranza assoluta col suo partito al Bundestag. La notte si accende al quartiere centrale della CDU, elegante edificio a vetri che domina la Klingerhofer Strasse nel quartiere occidentale berlinese del Tiergarten. Si accende alle 18 in punto, quando appaiono sugli schermi i primi risultati. Per la terza volta consecutiva la Merkel guida il proprio schieramento alla vittoria, e questa è la vittoria più bella, la più netta degli ultimi 20 anni. Der Jubel zeigt, wir können uns heute alle freuen, das ist ein super Ergebnis. Lei si scompone di poco rispetto al suo solito amplomba quando sale sul palco ad appena tre quarti d'ora dall'annuncio degli exit poll, che la danno oltre il 42%. È un super risultato, questo è il commento più sopra le righe che le scappa. Il vero strappo alla regola casomai è un altro, quando Angela Merkel ringrazia pubblicamente il marito Joachim Sauer. La sala, festante fino a pochi istanti prima, si zittisce. Sauer, ombra silenziosa, quasi trasparente della cancelliera, è a pochi metri. Neppure lui sembra aspettarsi un simile gesto d'affetto dalla donna più enigmatica del pianeta. Poi Angie riprende in mano la situazione e promette ai suoi sostenitori e alla Germania intera altri 4 anni di successo. La festa può così riprendere, i leader CDU salgono sul palco, rubano più che prendere in prestito la canzone Tage wie diese, vero inno nazionale da urlare in occasione delle vittorie, come i liceali che hanno appena passato la maturità. Lei, Angela, viene trascinata a forza sul palco, mentre intorno ministri e dirigenti ballano euforici. Visibilmente a disagio, la Merkel accenna qualche goffo passo di danza, poi saluta tutti e se ne va. Guardandola, non ci si può non chiedere, sarà forse proprio in questa immagine di rigore e assoluta affidabilità che emana che i tedeschi vedono la donna a cui affiderebbero occhi chiusi tutto? Lo abbiamo chiesto a Giovanni Di Lorenzo, direttore di Die Zeit, uno dei più importanti settimanali tedeschi. Mi ha colpito il fatto che lei per un pelo riusciva ad avere la maggioranza assoluta, una cosa che nessuno si era aspettato. Bisogna dire che noi tutti non siamo stati in grado per la terza volta di seguito, dopo altre due elezioni dove ci sono state delle grandi sorprese, di riuscire ad anticipare un movimento elettorale che ha cambiato il paese. Qual è il segreto di Angela Merkel? Stamattina in televisione si diceva: anche gli elettori della SPD e dei Verdi riconoscono che rappresenta bene gli interessi della Germania nel mondo. Parecchi di loro dicono anche fa gli interessi della Germania, non del suo partito. Sono questi i segreti che la rendono così popolare anche tra l'elettorato che non è di centrodestra? Sì, ed è questo il motivo perché è stata rieletta con tanto successo. Non c'era nessuno in Germania che veramente voleva cambiare lei. Per abolire un governo, per non farlo più eleggere, la gente deve dire basta, mi sono stufato. Non c'era questo, anche quelli che non erano d'accordo col suo governo, ed erano tanti, perché è stata questo trionfo della Merkel, allo stesso tempo è stata anche una sconfitta per il suo governo, perché i liberali sono usciti dal Parlamento per la prima volta nel dopoguerra. Ma la persona piace, non è vanitosa, è molto interessata alla soluzione di problemi reali e soprattutto non si riesce ad immaginare manco che la signora Merkel accettasse gratis un fazzoletto di carta. Tutta l'Europa ha aspettato queste elezioni, per mesi l'Europa si è fermata, ora possiamo aspettarci, come dire, una ripartenza con un nuovo governo tedesco dell'Europa anche, e se sì, in quale direzione? Il successo di un movimento anti-europeista come la Alternative für Deutschland, che per poco entrava in Parlamento, costringerà i grandi partiti a spiegare meglio l'Europa ai loro elettori, cosa che hanno fatto solo negli ultimi giorni della campagna elettorale. La signora Merkel l'ha fatto in un modo che secondo me significa sarà più conciliante e più responsabile, che ormai il leader dell'Europa è lei. Di Lorenzo cita l'alternativa für Deutschland, partito euroscettico che ha sfiorato per pochi decimali uno storico ingresso al Bundestag. Pericolo scampato per l'establishment politico tradizionale, dalla CDU alla SPD, che con l'alternativa in Parlamento non solo avrebbero perso seggi, ma soprattutto si sarebbero trovati una spina nel fianco costante ad ogni dibattito sull'Europa. Pericolo scampato anche per l'Europa stessa. A Bruxelles un successo dell'AfD veniva visto come un rischio da evitare ad ogni costo. Noi abbiamo cercato di capirne di più su questo nuovo movimento, fondato dal professore di economia Bernd Lucke. Il giorno prima del voto abbiamo incontrato Joachim Starbatti, professore di economia politica e capolista dell'Alternative a Berlino, scoprendo come l'AfD non voglia tanto l'uscita della Germania dall'euro. Fuori dalla moneta unica ci dovrebbe andare, secondo loro, qualcun altro. Noi non diciamo che la Germania debba uscire dall'euro. Nell'eurozona coesistono paesi competitivi come la Germania e paesi non competitivi come la Grecia. Ha più senso che i paesi non competitivi escano dall'euro per rafforzarsi. Sull'Italia, vent'anni fa eravate molto più competitivi di oggi. L'Italia ha perso il 6% nella sua quota di commercio mondiale. Ciò si riflette anche nell'export. E prendete le vostre autostrade. 25 anni fa io vedevo solo Fiat, adesso guidate Audi e BMW. Si vede chiaramente che avete perso capacità competitiva. Può essere più probabile che riprendiate forza competitiva uscendo dall'eurozona che non rimanendovi. La nostra visione è semplice: mantenere l'eurozona, ma riservarla solo ai paesi economicamente più stabili. Gli altri paesi ne escono per poi tornarvi non appena recuperano competitività e risanano l'economia. Non vogliamo due eurozone. I problemi dell'Italia, della Grecia o dell'Irlanda sono molto diversi. Meglio che li risolvano in modo indipendente, con misure calibrate alla propria situazione. Si badi bene, il pericolo di un successo dell'alternativa für Deutschland è per l'Unione Europea solo momentaneamente scampato. A maggio si vota per l'Europarlamento, probabile una protesta più marcata, probabile una crescita degli schieramenti euroscettici ben oltre la percentuale registrata alle elezioni nazionali. Restiamo però al tema Europa. Quale Unione Europea dopo la vittoria di Angela Merkel? Lo abbiamo chiesto all'ambasciatore italiano in Germania, Elio Menzione. Ovviamente le elezioni hanno visto un trionfo del cancelliere, della signora Merkel, di proporzioni largamente inattese, direi. Né noi né gli altri osservatori tedeschi si immaginavano una vittoria di queste dimensioni, un aumento di più del 7% dei voti rispetto alle ultime elezioni. Quindi è chiaro che la signora Merkel resterà il perno assolutamente ineludibile entro cui girerà la politica europea tedesca. Non, a mio avviso, ci dovrebbero essere cambiamenti di sostanza. Cosa prevedere per il futuro della politica europea della Germania? Non è sicuramente prevedibile un cambiamento di rotta sostanziale, brusco. La signora Merkel ha vinto trionfalmente queste elezioni anche grazie alla sua politica europea, non soltanto, però anche grazie alla sua politica europea. Quindi ritengo molto probabile che la barra più o meno sarà mantenuta in questa direzione. Che influenza potranno avere i suoi alleati, soprattutto se saranno i socialdemocratici? Difficile prevederlo adesso. L'Italia, come altri paesi, hanno chiesto più crescita e meno rigore, in modo abbastanza esplicito, negli ultimi mesi ormai, dopo le politiche di austerità. L'impressione però è che Angela Merkel tenga molto la barra dritta su una politica di crescita condizionate però a riforme. Vuole, esige riforme dai paesi che devono fare ancora riforme strutturali, come ha fatto la Germania. In questo dobbiamo aspettarci una prosecuzione di questa richiesta tedesca di riforme strutturali ai paesi del Sud Europa? Direi assolutamente di sì. Su questo punto non ci saranno sconti, non ci saranno cambiamenti. Un'Europa sempre più tedesca, potremmo dire. Beh, questo forse è esagerato, però un'Europa in cui la Germania si sentirà, dopo questo risultato elettorale, più sicura di sé, sicuramente. E qualcuno che ci può aiutare a capire meglio come saranno i prossimi 4 anni della Germania in Europa, quali politiche soprattutto esprimerà, è Joachim Zeller, deputato della CDU a Strasburgo. Also ich würde das nicht als Bremse bezeichnen. Wir sind für die Bankenunion. La Germania non frena l'Europa. Noi siamo per l'unione bancaria, ma prima di tutto per la vigilanza bancaria, ci dice Zeller. Non la vigilanza sulle piccole banche regionali, ma sulle grandi banche che con le loro speculazioni hanno portato alla crisi. Abbiamo bisogno di una regolamentazione dei mercati finanziari, con una tassa sulle transazioni che viene tuttora bloccata da alcuni paesi, per non parlare dei paradisi fiscali. Sono tutte domande che non hanno ancora trovato una risposta. Anche il problema della stabilità dell'euro è all'ordine del giorno. Io penso che la Germania proseguirà la sua azione in Europa, solidarietà, ma senza cambiare in bianco. Molti paesi europei non si sono ancora adeguati alla globalizzazione in modo competitivo, non hanno fatto le riforme. Più serie saranno queste riforme, maggiore sarà la disponibilità della Germania a mostrare solidarietà nei loro confronti, chiarisce Zeller. Und je ernsthafter die Reformen angefasst werden und durchgeführt werden, desto größer ist die Bereitschaft auch der Deutschen Solidarietà zu zeigen. Noi non possiamo però lasciare Berlino senza dare un'occhiata a uno spicchio di Italia in Germania. Parliamo degli italiani al voto. Non sono stati molti, abbiamo scoperto, perché solo in pochi hanno la doppia nazionalità. Valerio Bassana, direttore del MIT, giornale online degli italiani a Berlino, ci spiega come la nostra comunità ha vissuto le elezioni tedesche. Sicuramente gli italiani hanno un certo interesse, soprattutto riguardante la situazione locale a Berlino. Qui c'è una forte preferenza per partiti come la Linke e i Verdi rispetto ad altre zone del paese, questo si sente molto. Diciamo che comunque in realtà pochissimi votano, questo è un grosso distinguo da fare. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.